che voglio usare per i cazzi di ciò, come stiamo parlando adesso, così, meno. E dico, beh, quanti siamo voi, quanti siamo voi? E dico, ma te se mi dite, cioè, se abbiamo curato un attimino questa cosa, forse la metà di me tutti, invece non ne frega niente a nessuno, capito? Cioè non me la fotte nulla a nessuno, quindi è inutile che anche lì, va a battagliare vaccini, non vaccini o cose. Siamo gaimi, che dobbiamo alla fine di tutto, non è una cosa di così, è un'influenza chissà che venne, se proprio lavoriamo con i russi, perché altri adesso che sono andati i medici a visitarli, a farli, a qualcuno gli ha detto la verità, capito? Questa è una cosa che è successa ieri, gli ha detto la verità, gli ha detto guarda, però purtroppo questa cosa buru passa a come, purtroppo è così. E gli ha detto sì, ma il cazzo sessuale, perché? Perché è così, è tutto un casino, non usciamo più noi da questa cosa, non è una cosa che ne doveva uscire a inizio anno e cosa, l'ho detto 2 anni fa io, è una cosa che noi non usciamo, l'anno passato mi sono copriato un po' con tutti, noi abbiamo detto tutti e non si può ragionare ancora, torna, aspettiamo tempo e poi ne riparliamo a vedere se è così, auguriamo gran saluti, però è così, non usciamo più, io il fastidio mio è che in altri paesi stanno meglio di noi, la televisione dice il contrario, e invece io ho gli amici fuori e ci parlo, tanto anche ieri l'altro tedesco gli ho detto e l'altro che faccio fuori l'altro luoghi e mi ha detto l'unico luogo e tutte le stronzate le cose le senti ai telegiornali nostri è che l'Italia è a un livello che non può figlio, cosa gli devo dire, non è possibile bugiato, mi ha acceso il telefono e mi ha detto no, aspetta che faccio una chiamata e tre cose no, cazzo di aro e cosa altro e mi ha detto ma la televisione mia queste cose non le prende, cazzo solo tu mi sei queste cose documentati, non puoi cazzo puntigliare e se sei solo indietro che ti impone la televisione tua, prova veloci e vai da pure a dai della televisione a vedere cosa è. La realtà è quella, non c'è niente da fare, ma la cosa che mi incuriosisce tantissimo, come ha detto Eugenio, è che praticamente perché noi siamo vaccinati, cioè mia figlia c'ha 3 vaccini, anche Luca c'ha 3 vaccini, eppure basta un niente, e questa influenza chiamata Omicron, chiamata Covid, che è già mata lì subito i biasi, se Antonio credimi, se io, se mia figlia avesse avuto i vaccini perché c'era l'artrite reumatoide sarebbe stata a pezzi, avrebbe capato perché già c'ha i suoi dolori con la malattia che ha, se c'è l'artrite reumatoide la sta curando, c'ha 35 anni ed è un casino, fa un lavoro da stare in piedi 10, 12, 14 ore, in più ha preso questa cosa, però l'ha preso sicuramente da qualcuno che è entrato al bar spacciandosi per il vaccinato, per protetto eccetera, invece non va via nulla e quindi ha contagiato non solo lei ma anche due colleghi buru e quindi l'ha messo un po' con la terra, tutto qua, capito? E poi chiaramente lei avendo questi sintomi influenzali dice ah, non è niente, un po' di influenza, faccio un colpo d'aria qui e là, ha incubato anche a noi, ci siamo passati pure noi, infatti che noi abbiamo fatto a voi un vaccino, loro un tampone e il risultato positivo, tutto qui, è una cosa che come dici tu non usciamo più, non si esce più da questa cosa, perché oggi c'è la variante Omicron, domani va la variante Eugenio, Doreto va la variante Claudio e Doreto ancora va la variante Antonello, non usciamo più, la realtà è quella. Sì, claro, ma infatti io quello che ti volevo dire, a me dispiace quello che c'è sotto tua figlia, è quello che voglio dire io, cazzo tu non puoi entrare dentro un'attività di usi che non stai bene, porco giù la cazzo incasini la vita mia, ecco cosa mi dà fatica, no che gli sia successo, poverina che cazzo a chi, è una cosa che a me quando me lo dite mi dispiace, ma tutti, mi posso passare io non conosco, però la verità è mi dispiace a chi dico, a porca miseria, cazzo, una da travagliare, sacrificata, ammazzandosi di travaglio, cazzo e poi cazzo me la niente così, mi si girano le balle, no? Oh, e allora dico questo, ma se stai male, ma perché cazzo non stai a casa? Ecco quello che ho detto prima, stai a casa, non devi andare in giro, invece a me quando mi hanno detto purtroppo che hai portato ora, mi chiamano anche due, dici, tra la famiglia, che contagiate cose, sono 30 lugonate, mi si sono girate le balle, e mi hanno detto, non dici, cosa cazzo non mi dici? Cazzo ho preso il telefono, gli ho chiamato e ho piazzato un casino, altri li ho mandati via da qua, ma di cosa stiamo parlando qua? La gente deve anche parlare, invece tutti non vuole dire nulla, cazzo non vuole dire nulla, e ho ragazzo per incasinarvi da me. Se tutti quanti abbiamo così no capo una notte, finiamo che muoci uno con l'altro e di così famo un piacere di buono stato, a Brunetta, sempre a quel signore alto quanto i coglioni dell'asino. Ragazzi, io vi devo lasciare che vado a farmi l'aerosol, dai. Che è meglio. Dai. dai, ci sentiamo più tardi se ci siete. Ciao Antonello e Claudio e tutti gli altri in ascolto. Ciao. Antonio Buroso, come ti gaddomi. Però, insomma, mi ha preso in cosa molto leggera. E sono in fase di guarigione. Però sono cose per casa, non sono nome, sono in naso fuori di casa. Vabbè, ma devo andare a farmi dare un giorno, sono già le 8. Ciao ragazzi. A più tardi, ciao. Ehi, ciao, ciao oggi. No, guarda, oggi io ti dico una cosa, cioè non è che so bisogno di cose, però ti posso dire che se tu stai a casa al caldo che non prendi né colpi d'aria né freddo né sbalzi, no, così se esci devi coprire il muso eccetera, anche se vedi una bella giornata perché poi è l'aria che respiri che è cattiva, ti riprendi subito, cioè non stai nuda. Cos'è che non da grave? Quando noi bisogna una puntiglia, te la andiamo in giro e dico, non mi ha fatto un cazzo a me, cioè gove e me la in giro, è da lì che poi vai a aggravarti, a farti eccetera, e anche in casa della vita agli altri. Però io la vedo giusta, stai a casa, ti riprendi e poi giù di tu, io ad esempio di tu, io se uno gaffre su te sa di sta cosa, sei a casa, non devi andare a rompere il coglione all'altro, cazzo, porca miseria, se non li fumo più. Purtroppo ciò che vuole persone, purtroppo. Va bene, ciao ragazzi, a più tardi. Ciao Claudio, Antonio amico mio, Claudio amico mio, ci sentiamo più tardi. Ciao. Ciao oggi, ciao, un abbraccio. E Lucia Antonè, ma la gente va giù là, la gente va giù là, perché guarda il bar della mia figlia, non passa lo straniero, ci sono dei controlli, pare ne sono due soci più tre dipendenti e ti dico che non passa lo straniero. Pare i carabinieri, dentro, fuori, tutti i luoghi ti domandano visto che reggi di impone, ok, però sicuramente qualche furbetto ha fatto giù il guaglio e ha contagiato tutti. Ora sono tutti negativi, grazie a Dio, però mia figlia è ancora a casa perché il secondo tampone è risultato ancora positivo. E ti dico, io e mia moglie siamo già negativi, però lei, siccome ha gli anticorpi molto molto bassi, perché ha appunto l'estate di traumatoide, quindi fa la puntura settimanalmente, prende un sacco di medicina eccetera, e quindi la pizza in grande è in forma, nonostante sia vaccinata, che un po' l'ha salvata, però la pizza in grande è più di noi, e quindi a me mi rompe le balle questo, capito? Ehi, ehi, è quello lì tra che ti voglio dire, cioè di burbetti, vi so, io ho bisogno con i denni, vi so, è normale, sai che sei mari, sai che vi ho un controllo, deve pensare che impazzi dall'altro, senti una tesi, io ho bisogno con i denni, cioè tanti di bravo cazzo a casa tua, porco cane, sei mari, sei a casa, non andare a rompere le balle agli altri, cazzo soprattutto dove sono attività così, porca di danni, sto rientrando comunque, no, l'ignoranza è in giro, grazie, che oltrepassa i limiti. Guarda, c'è un Antonello, così, no. Si vanno a dimenticare chi passa dall'altro, i mari sono positivi, però sono asintomatici, ha ragione, noi non ho ragione, infatti me, stati a casa, e continua a farsi, esci, mi hanno dato un forzo, ma quanti non un forzo, già anche per mia madre lo stesso, che lei, anche se ha tre vaccini, adesso devo uscire fuori, con la mascherina, per me la mangiare e portarmela in camera. Siamo una settimana con la mascherina, mi piace che vuoi che solo me, sono qua chiuso in stanza, fermo due chiacchiere, come esco dalla stanza, lavoro dove ci sono la mascherina, detto, cioè, ma non si può vivere così, è certo che hanno la ragione, perché ci sono i furbetti, e tutto quello che sta succedendo è grazie ai furbetti, capito? Grazie ai furbetti, perché i contagi sono venuti in quella maniera lì, senza poi aprire il libro delle stadi tutti aperti, discoteche che le hanno aperte e poi le hanno di nuovo chiuse, senza limiti nei supermercati, senza limiti da nessuna parte, capito? Tutta mutuandi, feste, festire, ma adesso era il caso di fare, sì, qualche cosa è stata annullata, io prima di cosa, di Natale, ho visto tanta di quella gente con i bambini in Piazza Italia, dei giostri, dei cosi, tutti ammontonati, di cosa stiamo parlando? Cioè se c'è un problema bisogna seguire la linea però, cioè se le restrizioni c'erano dovevano lasciarle, invece hanno fatto un sacco di casino, tutte zone bianche, ci siamo tutti ammontonati, feste in famiglia, feste qui, feste là, e ci siamo d'ora tutti fatti a pezzi, ma vaffanculo. Roberto. Sì, sono entrato, scusate. Claudio, allora, il discorso è comunque che ho sentito anche al telegiornale che questo medico faceva Green Pass fasulli, brutto bastardo. Non so quello, ma cioè, perché non chiedono documenti? Se tu mi devi fare un controllo del Green Pass, nel Green Pass c'è scritto guardi Claudio, però il Green Pass è di Pierre D'Antonio, e però ma io sono maschio, voi sapete già che io sono Claudio Matti o Pierre D'Antonio, devi chiedere i documenti, così doveva venire. Invece molti sono rifiutati, giustamente per carità, dice io, per carità non devo chiedere documenti a nessuno, ma sono con carabinieri, capito? E così, cioè, ha ragione Antonello, su questo non ci piove, è tutto un business di tutte le cose che sono state fatte e ancora ce ne saranno da fare. Adesso no, prima è uscito l'FFP2, lui ha fatto l'FFP2, avrebbe voluto aver fatto Ciacco il Gasino e si è usciti di mascherine mediche. Ma tu devi avere solo l'FFP2 a chi, se no come ti cazzo vatti ne guadagna chi si difende nell'FFP2? Non siete d'accordo? Ma una cosa, lo sapete le dimensioni di un virus? Ma vi siete mai informati quanto è grande un virus? No, io non mi documento su queste cose perché guarda, ne ho già le balle piene. È 2 anni che io fortunatamente, lo sai, fortunatamente io non lavoro più da 2 anni, proprio ho fatto andando via io dal lavoro e iniziando questa merda di schifo, capite? Perché se io lavoravo, io non ci sarei andato a lavorare, non ci potevo andare nel modo più assoluto. Oh, scusatemi un attimo, se ci siete dopo, vado un attimino, mi faccio un po' di latte caldo, così prendo la medicina, arrivo subito, così devo mangiare il cane anche, dai. Okay. No, scusa, volevo dire, poco fa Antonio, quando stavi parlando tu dalla radio, ho capito la radio che c'hai, però non ho sentito che antenna e che microfono. No, l'antenna una Mantova, il microfono il cane. Ma tu lo sai che abita Antonello, abita le mie sepolte, non più a te, tutti e ti vede a te. Guarda, ti ripeto, io non ho mai visto un segnale da portatore, se no più 20. C'è gente in città che non ce l'ha quel segnale. Gli arrivano più 10 qua e sono dietro di te, è coperto pure, e tu ce l'hai davanti. Qua arrivano 9 più 10, Antonello. Arriva 9,5 Claudio, 9,5 Claudio, 9,10, più o meno come lui. Ma come Antonello non ce n'è per nessuno. È arrivato sempre fortissimo. A casa, nell'altra casa che avevate, arrivavo lo stesso 9 più 20. 9 più 20, adesso io sono più dietro e mi ha calato un po', ma siamo lì, è 9.10, 9.15, è allucinante, ma c'è una zona favolosa, capito? Perché all'uscita di Porto Torres è proprio nell'inizio della vista per Sassari, diciamo, ecco, capito? Proprio la cantoniera dei Fidelazzi, lì in quella zona lì. Vai Antonio. No, io vi sento, mi cavolo, io vi intendo alla grande. No, Sassari però l'ho sempre sentiti bene, mi guarda, anche segnali. Ma la radio è la mia. E cosa? Però giù, 40 vicino al porto. È uguale, io Sassari li prendevo bene, infatti tutti gli altri mi dicevano, vabbè chissà cos'è, cosa no. E bene, Rubelli, io non ho niente da cosa, me ne frega. Quello che è così e basta. Forse la zona, forse azzeccata, forse azzeccato è l'antenna, buono, non lo so. Questo non lo so. Però in linea di massima i rami tutti quanti in ghiri, molte volte dicevano vuol dire che fai una cosa guada, no, cosa giù di qua, io lo dico mi va adesso, come adesso, cosa ti devo dire, 20 watt ci sono, poco di da, cosa maggiore buia di fare, cazzo me la fu, sì, quando poi ti anda, lo sai come funziona, sono vecchi positivi, però i watt sono quelli, non li ho mai usati, non idrato, non aggiù, mai trattato un apparecchio, ascio e cose così e basta, e così quando cerco il Galax, 10 watt, di solito 7 ne usavo, 7, così regolato a 7 e c'avevo sempre quello lì, perché parlavo col Galax prima di dirci, no? Poi invece ad alta canta che sta a parlare di cose, che mi l'hai fasciato, eccetera, e cose. Però lo stesso, voi vi ricevevo bene, però anche io da quelle parti arrivavo, dai, sempre tranquillo, sempre più o meno, vabbè, dici, giustamente i pigni di più. Che mi dai solo per curiosità un controllo così verifico come siamo io rispetto a te e tu rispetto a me per vedere se io arrivo oltre le 9 direi a Porto Torres. Break, tu arrivi 9.10. Registrato break, ma che Mantova c'hai tu? Turbo. E l'altro Roberto, può avere anche un'antenna uguale a Giovanni Nappioli, è la zona, è libero, ti vede tutto Sassari, a Carbonate, Antonello, adesso qua è 9:10. Io sono più basso di Roberto Antonè. Registrato Antonè, aspetti, faccio entrare. Sì, tu 9 tu arrivi. No, da quando eri là, cazzo, tu quando eri in chiesa eri sempre a 9:20, a bomba, eh. Adesso mi sono spostato, io sono 4 km da Sassari, sono in campagna Antonè. Però arrivi 9:10, tu mentre di là mi arrivavi 9:20, io ti arrivo più basso. Faccio entrare a Antonio, avanti Antonio. Gappa, buonasera a tutti e saluti a chi ha salutato. Gappa, buonasera a tutti in circolare. Non dimenticare nessuno, avanti chi ha salutato. Carlo qua, Ponte Nuovo, direzione Alghero. Sì, ciao Carlo, ben sentito, ciao Antonio. Gappa, Carlo, buonasera. 9-5, Radio 5, Carlo. Eia, qua, sto proprio finendo il Ponte Nuovo. Eia, ciao Antonio, ciao Carlo, buonasera. Buonasera a te, buonasera anche a Roberto e ben sentiti tutti. Eia. Ciao Antonio, buonasera, ben ascoltato. Va bene che va bene. Una domanda Antonio, ma è chissà di cagionabile o chissà? Sì, claro, sempre quella. Ecco, è già passato un bel po' di tempo. E sta sempre funzionando bene, può capire balle, balisci. Ottimo, vabbè, allora con la radio revisionata, tutta è un'ottima radio, c'è anche un bel po' di potenza con la radio, 50 di portante, 100 modulati alla grande, proprio PEP, tranquillo. Va bene, signori belli, per me è giunta l'ora dei pavesini, sono le 8:15, io vi lascio per andare a pappare. Un abbraccio grande Antonello, entra Antonè sempre in onghi, di noi siamo in onghi, si forma due giacciari. Ciao Antonio, ciao Carlo, buona passeggiata da Ghe e buon lavoro. Il cambio per Roberto, ascolto finale e poi chiudo, vai Robby. Sì, Anta, dai, ben sentito, dai. Ok, dai, e cercare che dopo se ti interessa 9:15 col Bologna, a chi interessa si può vedere qualche pezzo di pallone, dai. Ok, vai Carlo per i saluti a Claudio e poi Antonio e poi Antonella Porto Torres, avanti. Ciao Claudio, buona cena anzi e buon tutto, alle prossime. Grazie della notizia che c'è la partita del Cagliari, sono in videosorveglianza così me la guardo e non mi annoio. Avanti Antonio. Cappa, Essuga, ma vicino a casa sei. Cappa, salutoni Claudio, ce la risentiamo alle prossimine. Avanti Antone. Ciao Fra, tante belle cose. Sì, che tra l'altro a livello di tempo che so sempre la musica è sempre guida, buona cosa fa l'altra. Mi anche domenica che stavo parlando così con Antonio mi puoi, appunto gli stavo dicendo, grazie che conviene a non ripundiare da telefono, manco finito la cosa, ma diciamo e poi mi sono dovuto spostare e quindi la musica è sempre guida. Io fa vedere che bisogna il ricudo e fare la baci, c'è la musica non ciamba. Niente, dai, le prossime, ciao Cla, tante belle cose. Riprendo io, Carlo, una cosa. Sì. Ma dove sei adesso? Cappa, secondo me è quasi vicino a me, perché qua arriva a 9:20. E si è abbassato di brutto, era 9:30, adesso quasi quasi non senti voto. Ci sei Carlo? Sì, ero a semaforo. Adesso sono in corso Trinità. E allora dovresti sfasciare le antenne e lo smettere dall'Antonio. Ti volevo dire. Vai Roberto! Mi hai sentito Carlo? No, ti ha coperto Antonio un attimo, dimmi. Ho detto, se giovedì sera, diciamo, dalle 7 in poi, col volo dalle 7, tu sei operativo lì. Giovedì questo in aeroporto? Dopo domani. Allora, no, dopo domani perché faccio smontante libero, quindi smonto domani mattina alle 5, poi c'ho lo smontante, un giorno di riposo e siamo a... Fammi vedere che adesso sono in macchina, dovrei esserci di pomeriggio. No, sono passato, siccome devo accompagnare mia figlia all'aeroporto, parte alle 7 per Milano, dopodomani, se c'eri ti salutavo. No, perché poi rientro di sera, Robè, quindi io non ci sono, sarà per una prossima, tanto guarda, all'aeroporto prima o poi ci passano tutti, capito? Quindi magari quando ci siete già mi fa piacere, basta che arriviate ai controlli di sicurezza, basta chiedere ai colleghi, anche quelli del check-in, di Carlo e ci sono solo io, capito? E già esco poi. Sì, sì, capo, dai. Poi già sai dove lavoro, quando vuoi passa e ci salutiamo, dai. Ok, facciamo riprendere Antonello da Porto Torres, il numero uno di Porto Torres è diventato, è zona limitrofe. No, figurati. No, no, dicono, io guarda, la verità non lo so, c'è la giubbotta, chissà cosa, dico sì, senza curare il discorso più di tanto. Una cosa che avevo da tanti anni, poi non l'avevo più usata, mi si era rovinato l'apparecchio, lì l'antenna l'avevo tolta, e ti devo dire un errore grande quello che ho fatto, la mantova 1, no, la mantova 5, l'ho tolta per pulire le cose e poi l'ho regalata, mi si sono attaccate la videocamera, poi avevo deciso di rimetterla. Avevo avuto ragazza 12, ma l'ho messa così, a coso, perché non c'era mai nessuno, ha detto vabbè, apri la bomba, invece poi piano piano, insomma, ogni tanto ci si parla, passa l'ora, chi già andava, prima eravamo in tanti a Porto Torres, quindi era un divertimento, dai, ragazzi, un passatempo ogni sera, mangiare sera era un divertimento, adesso invece forse siamo rimasti 3, 4, 5, non lo so adesso in quanti siamo. C72, Eugenio, Mario e Claudio, e poi quell'altro Giovanni, però quello lì è al terzo pettine, che ogni tanto entra. Però di quelli di Porto Torres, ti ripeto, nessuno, io pensavo che addirittura fossi verso Ripunto, per arrivare così forte qua, non avevo mai ricevuto un segnale. 9.20 da Porto Torres, Eugenio arriva a 9.10, 9.15, dai, con i picchi arriva a 9.15, ma 9.20 non era mai arrivato nessuno. Vediamo Antonio quanto gli arriva, Antonio, quanto ti arriva Antonello? 9.5 e radio 5 a bomba K, a me mi arriva forte, mi arriva anche Claudio a Porto Torres, mi arriva un bel forte lo stesso. 9.10, sì, no, anche a voi io mi sento, anche a te Anto, tu arrivi 9.10 e arriva bene. No, io in linea d'aria più o meno sono messo come Eugenio, solo che lui c'ha un'altra antenna, anche se lui dice sì, un bel più nascio di me, sì, ma tanto bussa sì, un più nascio di te. Più per Sassari parlo, più o meno siamo lì, se più o meno abbiamo lo stesso apparato o gli stessi watt, poi non lo so, un Gantu 10 non dovrebbe variare più di tanto. Secondo me la differenza che c'è da me a lui, anche Emiliano, perché Emiliano è lo stesso che ha un apparato come questo qua, però lui dice no, tu a chi sei binaccia, torra, cazzo, c'è la differenza sull'antenna, cioè si tuffano una Game Master, la Mantova è superiore. Oppure dai, ti butti tu altro video che vuoi, mettiamoli a confronto e lo sappiamo subito. Secondo me, poi sto sbagliando, quello lo vedranno gli altri, però secondo me è un'antenna che ha sempre funzionato, è andata bene, non ha mai avuto nessun problema, nessuna cosa. Loro tutti e due hanno quell'antenna lì, secondo me se loro cambiano antenna aumentano il segnale, secondo me. Sì, no, ma poi la quota, quanto puoi avere, 20 metri in più di uno, è tutto pianura sino a salire a Sassa, e poi per vedere altezza, differenza di altezza, devi salire tipo dove abito io, nella zona alta della città, zona stadio, di lì la noti la differenza, ma se sei tutto il rettilineo di Porto Torres, sino ad arrivare agli punti, la quota quanto ti può cambiare, 30 metri, ma esagerando in brutto, sei quasi a livello del mare. Siccome l'altra volta avevamo esempi di Futene, no, con Emiliano, perché loro dicono no, tu sei un bel pinato, tu insomma regola il team e te lo devo dire, e mi ha detto che 60 metri piace, ma stai scherzando, cioè praticamente se con un grattacielo piace di voi, aiutate, non dimo stupidate per la pressa, cioè sì, che vi sia una differenza, sì, però per fare un confronto bisogna che utilizziamo lo stesso apparato con la stessa antenna, se no non si può fare un confronto, perché è l'antenna che la fa da padrone, se l'antenna non è buona tu li puoi punire tutti i watt che vuoi, non andiamo sul logo. Io c'avevo allora da qui col Galaxy il Saturnecco accompagnavo forse magari tu non so se ci hai mai parlato Costantino, vabbè, di Polotore, che lui c'aveva un camion, portava il polistiroro fino a forse a Flussia o a qualche luogo del genere grande, tutto un camino io di news. Tutti canti, no, vuol dire che tu vai una cosa guarda, vabbè, poi alla fine gli altri va, venite a vedere, abbiamo seguito il filo, abbiamo mandato gli altri a casa, guardatevi, controllatevi il segnale, forse era azzeccata, forse era fatta, però non uso questa cosa, ma riuscivo a andare così e non uscivo quando proprio con lui, quando proprio esagerato uscivo con 10 watt. non di più, no, perché poi siccome rimanevo ore e ore e ore a parlare, e la paura era sempre di futtirlo, di farlo, e quindi lo mollo. E come ti dico che una macchina moto è sempre a tappo, fuggendo, no, la sa, cammina tranquillo, questa cosa non saprà mai facciare. Gli apparecchi sono matessi, se spinge al massimo, mi spinge lo cuozzi, e non fa niente da fa. Se si ha poi su un'antenna, no, perché io giù una volta per Puntiglia, erami con il gigante, ma mi va bene, fatto arrabbiato, come dovrei, ho lasciato la portante schiacciata del Galaxy, sono andato a cercare a questo qua, sono andato al mare, ho perso tempo, tante cose, sono ritornato e c'era sempre la portante schiacciata, ho detto uff, la pecchia bruciata, invece non l'aveva fatto nulla. K, chi era altro tu, eri avanti? K. Ora, e mi avanzo che prende un po' più di potenza. Come arrivo lì, Antone? Tanto più o meno lo stesso, più o meno. K, va bene che mi ricassi un poco. Ma c'era qualcun altro sotto, avanti che vuole entrare? Vediamo Carlo dove è arrivato. Carlo, dove sei arrivato? Sì, vivo Argentiera, non so se l'avete sentito. Qua sei 8, Carlo. K, qua è basso basso, K. Carlo, mi senti? K, sei pio pio qua, Vediamo se ti senti Antonello. Avanti, Antonello. Ora. Sì, ma un po' mi ha aumentato, tanto sì che lo sento, basso ma già lo sento, 3. Pensavo stessi rientrando, Carlo, invece stai andando a coso, all'aeroporto. Sì, stanotte faccio la notte fino alle 5. Fino a, perché ci sono aerei che rientrano a quell'ora. Aspetta, facciamo un attimino il bianco se c'è qualcuno che vuole entrare nel frattempo. Avanti sul canale 10 che vuole entrare. Avanti Crizia. Scusami Crizia, mi sono dimenticato di te. Riprendi tu Crizia. Scusami Crizia, riprendi tu. Proprio mi sono completamente. Vabbè, mi sono anche allontanato io 10 minuti. Riprendi Crizia. Allora, guidando adesso. Dove sei? Sì, ancora da Valletta. Ok, ti ascolto benissimo, 9:15 qua, a Voglia. Vediamo Antonello, se ti ha ascoltato, avanti Antonello. Ciao Cristian, no, io piccolo, 3 qualcosa, dai. Vabbè, se ancora se non sei palazzi, se non sì, ma sei in macchina tu? Ma per che cavolo, allora già va bene, dai. Scusatemi un attimo. Sì, sulla nave qui che fa paura. Papà. Prima lì addietro ci avevano quasi tutti in macchina, tutti quanti vedi attrezzati, vedi busca, va, mi barichi. Speriamo che si smetta di nuovo. No, io non volevo mettere in macchina lo stesso. Niente, già è una cosa, dai, già va bene. Quindi sono prima a casa, adesso non sono in macchina perché non sono quasi mai a casa per lavoro, perché sono sempre in giro. Andiamo bene, andiamo, bubu. Uè Luca! Sì, e a me non sto mangiando in camera, perché non posso stare fuori. Un bel tanto di latte a caso, poi per un occhi. Un occhi che me ne escano, per carità. Va. Sì, ma se per non mi diceva non posso subire alcol. Lo so, però a me non mi piace acqua a vita. Mi sono cura di andare a portare il campare. No, mi puoi essere il lano, il buco. No, Antone. Ma tu acqua a vita buona ci vuole. Antone. Questa di laino. Ci vuole acqua vite buona. Antone, che devi voi, questa di laino. Di laino. Vabbè. La gola mi sta dando fastidio, la gola, ce la metto di palle. Ho provato mele con limone, nulla, non passa, lo spray, caramelle, chito, nulla, palle che ti gola, nulla, non passa. Una palla è buona, una palla sicuro che passa. cosa ti dicendo? No, il mio che andare così, comunque bisogna stare anche già, bisogna un attimino stare a casa, perché magari anche prendere un colpo d'aria oppure bevande magari fresca, ti curiamo da anche già, quando sei così ti piace buona roba fresca, e purtroppo va a peggiorarla quella cosa lì, è l'incontrario di quello che facciamo noi. A chi quando ti piglia a forza un mal di gola purtroppo è una seccatura, è un problema, eh. Io non so che io tira la saliva, trova, mi credi? Ascolta, è col miele, provato hai. Allora, ho fatto questo, diciamo, monocillina, gola dolore, miele e limone, nulla, manco un meno. Diciamo che di notte un po' me lo calmava, ma poco, adesso proprio niente, zero, questo sta andando aumentando, cosa ne so. Poi c'ho questo, mi è uscita un'afte nella gola, quanto vedete stamattina al medico, mi ha dato questa medicina che purtroppo nella farmacia dopo stamattina non ne avevano. Però io sono un po' su uscire, adesso se mi viene domani la mia ragazza me lo compra lì. No, comunque sai cosa devi, il miele, allora devi prendere il miele di quello non trattato, che sul miele ambrosolo che così non serve a nulla, che si proprio non serve a nulla. Se lo trovi quello nostro, il miele sardo, guarda che il miele, ogni miele ha una specifica, se lo trovi lì ti fa passare anche mal di testa, perché praticamente lo miele da qui alla fine è un antibiotico naturale. Se tu lo prendi un cucchiaino, però non lo ingoiare, cioè tu te lo fermi proprio dove c'è il bruciore, cerca di resistere un po', no? Prova a vedere, ma in un attimo, guarda, in un attimo agisce subito, è sopravvissuto una vesuria, poi giustamente si è infiammata o altra cosa, però ti aiuta tanto, tanto, tanto, e forse è una delle cose che funziona senza abbia farmaci. Che è molto buono come vicino. Ti confermo Antonio, il miele è un toccassano, se no sto qua che ho preso io è... Non so se è sardo, boh, lo sfilo contro. Ma l'ho sempre usato, ma ho fatto sempre bene. Questa volta niente. Cosa sta dicendo Cristian? Anche troppo gli fa bene, sta facendo scherzi. Un casino, mi devo poco di cosa, ma... mi sa che sei... Tu vuoi vaccinato, sì, Antonè? No. Sei contro il vaccino? No, io me l'ho preso l'anno scorso e sono pure arrabbiato oltretutto perché è una cosa che mi è stata attaccata e mi ha rotto un bel palle, no, però alla fine Zecco diceva attento, sono dall'anno scorso che io continuo a dire che questa cosa non finiva così, invece tutti quanti mi ridiano in faccia, che con me non si vuole ragionare, che non era di così, che in estate finiva tutto eccetera, e io ho detto, mi ho giocato tutto quello che so, come arriviamo a dicembre ne riparliamo, guarda, io ho detto, dicembre, gennaio, febbraio, bripare di vecchia battaglia, e forse buro, a chi si va a fare di tutto, quindi ha fatto in sciluccia, a chi non capo una battaglia niente se si intende mari, è solo da rubinsamento, secondo me, a chi è così. Poi, guarda, io non è che sono contrario ai farmaci e cose, se ci vuole li prendiamo, per carità. Io quello che ho detto, voglio capire cosa mi stai mettendo lì dentro, e mi hanno detto, ma non è così, torra, vediamo. Cioè, io ti faccio una domanda, tu mi rispondi dicendo, ma no, io non me ne posso, tu poi arrivi e mi fai un vaccino di così se sapevi cosa occupare. E poi ti dirà uno, e vabbè, ok, dove si va uno, così gli apposso, e le moneta te ne vado, poi te ne vado in un altro, poi. Però che in un secondo non andare via, bisogna fare pure la terza dose, ok, devi fare pure la terza dose, ok. Avrai già pronta la guascia, ma di cosa non va vedendo? Tutta quella roba lì secondo me bene non fa, secondo me. Poi sto anche sbagliando, non lo so. Tu mi dirai, giustamente non esci, non andi in ottori, ma io alla fine ci rinuncio, dai, cosa? Aspetto, quello che ho fatto prima faccio adesso, aspetto, poi vediamo che va. Perché è solo l'Italia, mica, fai di tutto cambio, tu dici pulito, gli altri luoghi cadono meglio di noi, poco di girata, beh. Sì, Antone, guarda, io sono d'accordo con te, io non so manco cosa ci ha detto, mi sono fatto iniettare quello che mi hanno iniettato, ma non so, non ho idea cosa ci sia dentro, non lo so. Io purtroppo sono stato costretto, altrimenti mi fanno manco entrare all'ospedale per portare mia madre. E lui butta la forza di tamponi e dire che cazzo mi li dazi. È un casino, sono stato costretto a farmi il vaccino. Poi poi ripeto, ognuno è libero di fare quello che vuole. Guarda, io ho sentito al telegiornale un tipo che l'hanno intervistato, praticamente lui ha preso il Covid, l'hanno intubato, però grazie a Dio si è ripreso tranquillamente bene, perché ha i vaccini, se no sarebbe stato già da un'altra parte. Però ascoltami a me, no, guarda, non mi dici voglio fare a Zabuddo, visto Covid, no, niente su altri. Se vuoi io ti mando un po' di cose, te le mando io un po' di cose e te le guardi, non è così però. Tanto ci arrimari uno, ci arrimari l'altro, non ti preoccupare. Loro dicono solo una cosa, morto non vax. E perché non ti dicono tutti quelli che sono morti vaccinati? Perché non te lo dicono? Vuoi vedere che te le mando? Te le mando, te li guardi e dirai, cazzo, è così. Quando li mando a tutti quanti che li vaccinati, non si ripara e siamo sempre attaccati. Ma lì che sono fatti, non so parlare. Allora, siccome io sto dicendo cazzate, io siccome sono gli amici un po' fuori, li chiamo, mettiamo una videochiamata e lo sappiamo subito. Davanti, poi la vedi secondo di due. Purtroppo il telegiornale è comprato. Loro devono, tu devi ascoltare solo una campana, guarda. Tu devi ascoltare, chiedo che ti imponi, chiedo che ti dici, tu devi solo esclusivamente questo. Non esci fuori da inghili, perché sennò guai. E tu vedrai che piano piano inizieranno a rompere le palle, poi romperanno le palle a chi manda queste notizie qua e arriveranno al punto che vengono arricciati, come ti hanno fatto in Cina e nasce Rubi. E capite? Poi a Rusanieri la venire che ti va a venire qua. Perché lì? Perché non vogliono che cosa tu la dici. E tu devi dire solo in chiedo che ti dici. Hai compreso. Ma manco dittilo, noi vogliamo da fuori appunto e basta. Dimmi, mi sa che vuole bene. No, fammi vaccino e vattene a fanculo. Ma non mi bia per il guru, sì però. Sì, ha ragione, vabbè. Poi ripeto, ognuno può fare quello che vuole. Ce ne sono tanti che non lo fanno, vabbè. È una loro scelta. Poi, chissà cosa ne uscirà. Poi, io ne so, faccio un esempio, se tu in pizzeria non ci vai, nei bar non ci vai, perché se ci vai al bar, il bar non ci fa neanche che ci vuole Green Pass. No, non esco più, non mi interessa più. Guarda, mi dispiace, non mi interessa più. Mi chiamano, io se voglio vado, entro, non ha più problemi a entrare, no, assolutamente no. Conosco un po' a tutti e no, non ha più problemi di questo. Sono io che non ci voglio andare, per quello che ho detto prima, perché magari io arrivo lì, io uso Budita, beh, trovo il deficiente che sta male e tocca quello che è toccato tutti, si pone vicino, fa una cosa palla che mi dovrà in casa nella vita, quindi tu, la preferenza no. E non è un discorso che se c'ho il vaccino non mi attacca, ti attacca uguale, non vai niente da va, tu mi dirai, non vai a finire in terapia intensiva, torna, non vai a nulla, neanche io se vado a finire in terapia intensiva, no, assolutamente. Quelli di Porto Torres che sono morti l'anno scorso, sono morti perché stavano male e non si sono curati, amici miei, non si sono curati, perché infatti da voi le urivianze e l'Eugenio, cioè praticamente lì non si sono curati, e sta cosa si hanno buttato da Nazi, lì prende infezione, come tutte le cose, dai. Tu hai una ferita, una cosa, non la curi, ti prende infezione e poi va a finire che ti indagano, dito ti indagano, capito? È la stessa cosa, Lisa. Il discorso cos'è? Che tu quando vai lì non ti curano come dicono loro. Allora sabbatti, se tu vuoi che ti molla, inghivi come te lo cani. Ma cazzo discorso siamo? Cazzo discorso siamo bene? Cazzo, chi giocando del nonno, quando la nemoci, chi dà, ha detto, chi li puoi servare così? Quei giudici che hanno fatto bene in televisione, marito, moglie e figliore, e arrivato il dottore, ha detto, fermo, non si annelli, ferma di inghivi. Gli ha dato la stessa medicina che hanno dato a Berlusconi. Tre giorni contati, il giorno sono stati male, il secondo giorno stavano meglio, la terza lì, Berlusconi compreso, e la Fruscelli. E ci credo, è vero, ha spiegato tutta la cosa, perché non gli danno quei farmaci? E invece no. E loro dicono, in ospedale non ci devi andare, lo devi curare a casa. Invece loro no, ti vogliono curare lì, perché se lì ti viene una maledizione, prendono 9.000 euro a persona. Hai compreso la pappa cosa è tutto quanto, visto parlavano di cose. Se non ti avrebbero curato a casa, scusa, tu stai male, fai una segnalazione, sto male, ok, perfetto, cosa va? Sappia di rugore. in base ai sintomi, così chiama il tuo medico, come argomenta il giovane, io non mi so che muovi, non so che andare a lui, come il giovane, lui manca tutto, il giovane, ci manda a me in bordo, in chiesa, andai in chiesa, sono andato in medicina, mi ha arrigato, ci sarà tutto, ho chiuso tutto, non ho avvicinato a nessuno, mi sono rimasto tranquillo, per i fatti miei, buon bacio, ti ripigli, ma magari è un problema. Molte volte però noi ci intestardiamo e dico, a me non mi vado un cazzo, c'è questa cosa in corso, a me non mi vado un cazzo, quando di una pizza, andai a finire, è troppo daggio, a chi si, a gabbani, non ti sai, vani, a gabbani, che deve essere, capito? Perché lì ci sono interessi. Un posto di ricovero di Covid ti costa quasi 5.000 euro al mese, 5.000 euro a paziente. Però guarda una cosa brutta, ragazzi, buio, guarda, io si lasciato bene in me, se mettono a me a decidere io li avrei salvati tutti, guarda, metti a me a decidere, non mi interessa se è bravo, se è malo, ognuno si porti la vita sua. Però non è giusto che tu lo ammazzi così una persona, no? Non è giusto, sono tutti tanti cose che si hanno inventato nel laboratorio, a Giunani ti dà qui paragina, rugoso, no, nulla, a chiedi non lo sai. Tu guardate voi cosa è successo l'anno scorso, che quando c'era Moeticazzo di Giama, l'altro, gli ha detto che va via la situazione in mano. Io ero un bel arrabbiato, che poi c'era una discussione, non mi ricordo, alla radio qua che stavamo parlando, sul 12, non sul 10, e mi dicevano che con me non si voleva più la torra, ma se c'è una cosa che lì sta andando a aggravarsi, bloccala subito, no? Abbiamo un puntino di ruggine, ragazzi, bloccalo subito, non è che si mangia il gofano, per capirci, no? Come tutte le malattie, come tutte le cose. Invece loro cosa hanno fatto? Hanno fatto in modo che si è intossicato da gas in mezzo Italia, qui hanno chiuso tutto e da lì è partito tutto il casino. Perché la gente da lì l'hanno fatta venire qua? Io questo ve lo posso assicurare a voi. Allora, la gente è scappata dalla zona rossa e se ne sono venuti qua, Stentino, Alghero e Castelsaldo. Ma chi gliel'ha permesso a questa gente qua? Chi gliel'ha permesso, porca troia? Ma cosa l'avete fatto in bacca? Ma cosa non avete colto una bomba alla nave, ti vai la nave tutto, qui ci vuole punire così? Perché? Perché c'erano interessi. No, sto sbagliando, vale lui e Oristano anche c'è. Sì, vabbè, sicuramente, no, ma sicuramente anche di più, però io parlo della zona, capito, della zona qua, e questa cosa la sapevo bene, bene, bene, bene, bene. Non è giusto, cazzo, perché tu li hai fatti venire da là se stavano male? Cazzo, tutti positivi e non li vai a rivieno. Dai, cazzo, aiuto. E da voi, cazzo, vi venimo tutti, si sarredi, non potete più uscire, non potete più andare, ma cosa c'entriamo noi? Ma bloccali lì, perché noi qua potevamo stare bene, per esempio in un'isola, no, per noi no, che vogliamo messa, no, bene, no, di più, invece no, hanno incasinato tutto. Si conferma, però una cosa ricordati, dove hanno fatto questa specie di virus, lì fa gli esperimenti l'America, la Russia, la Germania, tutti in chi bisogna fare gli esperimenti, allora va tranquillo che tutto il mondo. Certo, certo, giusto, giusto, giusto, noi parliamo qua perché siamo in Italia, sono tutti d'accordo, ma ci mancherebbe altro, questo è un accordo mondiale che loro hanno preso, perché cioè, oggi con i sistemi che abbiamo, no, volendo, l'avrebbero bloccato subito, non lo bloccano, gli fa comodo così, però sono tutti, e sono tutta una decina. Guarda, io sono vaccinato, con seconda dose, tutti i miei sono vaccinati, però io sono convinto che quello è cosa fatto in laboratorio e hanno già tutto come distruggerlo, va tranquillo. Io guarda, l'unica cosa ti auguro sempre ogni dia a tutti è di guarire e che questa cosa finisca, dai, perché cazzo, dai, non puoi, la gente la stanno anche ammalando di testa, non si può più ragionare con i bassoni, dai, cazzo, che ormai sono diventati quadrati, con che ragione, qualsiasi ragione che fa vedi, così, tutti quanti proprio della mia madre siringa, dai, per favore, io ti chiamo di là un attimino, dai, mi riguardati, invece no, sono tutti presi da questa cosa. A chi tu fa vedere quello che fa vedi, alla fine, anche se il discorso è altro, ci ricade sempre su quello. Fate il bip. È così, ma volevo capire, ma Carlo è arrivato ad Alghero? Carlo, si è arrivato ad Alghero? Forse, non lo so, non lo intendo più io. Non lo so, vabbè. Non lo so, no. Non intendo più manco io. Adesso sono alla massima potenza, come arrivano alle tue parti? Sì, sì, Antu, qualche cosina in più di prima, di quando te l'ho detto io. Vabbè, il segnale è uguale, tu Ciao Antonio, Natale. Non posso cosa dirvi, eh? È uguale, no? A punto di dire che è molto di più. Lo Smith è sempre uguale, uguale, va tranquillo. Vabbè, uguale così magari. Però se va per la differenza sono più forte io perché sono a Sassari. Però la linea d'aria è più aperto Antonello di Temmi. Lo sai qua? La porta è aperta bene, sembra a posto. Sembra un po' strano, Antonio sicuramente perché essendo più vicino a te dovrebbe arrivare molto più forte. Sì, ma non credo che tutti uguali, perché io sono, si può dire, sono a metà strada adesso, tra Patamone e Sassari, certo, tutti due forti è chiaro proprio. Allora se sei in quella zona può essere, perché già lui arriva forte qua. Oh sì, io sono sempre a Graziella adesso. Allora se sei da Graziella già può essere, sì. Allora, mi dici tu, ma io c'ho un baracchino che è ecco con 5 fatto, mi ha mollato, cioè niente di che. No, ma cosa, ma Roberto c'è ancora? Roberto, ci sei? Poi forse ce n'è andato, ce ne siamo dimenticati. Si è spostato un attimino Roberto, ti avevo scritto. No, ha detto che, infatti, ha detto che si spostava un attimo. Comunque così è povera Italia nostra, ragazzi, abbiamo fatto la fine. Noi come isola dobbiamo essere i più belli, secondo me, di tutto il mondo. Più belli di tutto il mondo? Antonio, noi dovevamo stare tutti i giorni in festa qua, alla grande, mangiando di buchetto, esercizi e tre cose, cazzo, invece no, so, un altro po' che ti sarai detto a casa. Già avrai ragione, già. A parte che bella ruscita. Quella è la vita nostra, gira come vuoi, la vita nostra è quella, arrucciate, ma niente, fende vecchia, e ce la piglia in culo, vedi un virus. Vai perfettamente ragione, vai. Il cristiano era stato più sano, più forte, più voglia di lavorare e tutto, invece così lo distruggi in tutti i sensi. Hai perfettamente ragione, vende vecchia, ma niente, è arrucciate. Cazzo, tutta un'altra cosa, se tu vai a vedere, cazzo, che nella mia minore di subito, cazzo, un passaggio di passaggio, più che siamo al russo, non vera, cazzo, di mazzammo, di cosa buona, cazzo, di pignuri, di vieni, ti mangiendo, bevendi, e fendi fessa, porco Giuda, cazzo, ma invece no, oni, sarradutto, tutta a casa, distanza, mascherina, tamponi, cose, che cazzo. L'impressione di Sarri, non quanto venne. Non mi va la bagliacciata e c'è cosa. Un attimino, ho riconosciuto la porta d'Andrea. Ehi, a capa. Ti ha chiamato la cosa, sto mangiando. Magari io, no, ti ho chiamato a Roberto. Ah, no, sei tuo Claudio, boh, che sto mangiando. No, è già chiamato a Roberto, ramicciamente. Hai bittato di peggio, nega, sei attratto che cosa amare, c'è cosa. Qui è meglio che abitato, sì. Papà, è bulbendi, Buoni nuovi, Alto, buoni nuovi. Dai, vado a mangiare, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao. Ah, poi ci abbaccio i nuovi, se no, Stava di cazzo dell'antenna appena. Infatti. Mari non li basti. Però è così, Antonio. È così, e anche quando ero molto molto più piccolo che venivo lì dalle parti tue, cazzo, in giri, c'ho camminuto, cosa, chiedo che viene, insomma, ma di cosa cazzo siamo qua vedendo, non c'è, e vino, e ce n'è forse. Ah no, così boh, ha mangiato tante cose, pure io aggiunto, basta per conto mio. C'è pari fatta apposta, ma la mia da Baruguro pare. Ma c'è il tavasso che con... cioè, non ci sono più a casa di babbo. Allora se mi conto non c'è il papà che si poteva di vissi, magna, fa, e andava ogni arrugo. Invece siamo tarrati in prigione, vai, in oramara, vai. E non è questo che ti gioco dicendo, cioè se tu il cristiano lo fai, ascoltami, allora, se tu lo vedi, no, nel suo piccolo, e gli dici non bisogna molto un attimo, ma vai, vaffanculo, e organizzi uno spuntino, la riabbia, quando si fa di una voce, anda a rizzo, anda a cioccolare, anda a chi si prega, e lei si ripiglia e torna tutta normale, ma lei dice che cosa non lavori, non lavori, tu eri già in casa, e stinosi di un California, in Libero, non ha luogo, eccetera. Questa cosa, è normale che uno che ci guardi il capo si nervosisce, si vazi, chi dove va il vaccino, si buoni contro chi dove non va il vaccino, dice qui per la tua, no, qui per la tua. C'è tante cose, capito? Perché poi le fanno, gli lusani che da voi questa cosa le buona parte, lascia tranquilla della passione, fuggiti. L'altra cosa ha detto, siamo sempre in feccia. Allora tu fatti un conto che io mi ho fatto una videntria sempre in feccia e non mi è mai successo nulla, non ce n'erano tutte queste stronzate, cazzo. Boh. Ah, è pieno di buccarotti. Chi sono stati buoni macri lì? Cazzo, mi male, cazzo, tanti pagliacci posso fare. Se niente mancanti, so. Boh. Cioè, pagliacciate, a me mi pare negozi che come ti si fa dire, sto giungendo all'uomo o al dottore, non so come io dico se si offendisce mancante. Non si può, io continuo a dirlo, no. Non si può andare così, ma per tante cose, ma tu figurati pure gli anziani di furi, cazzo, una vita travagliata, vatta, cazzo, non puoi andare più a lungo, in Ghivi non puoi andare, in Ghitano non puoi andare, un altro mogo di Sarrani e non le fate vedere manco la gente di casa, ma dai. Ah, poi uno arriva dall'anziano e dai, magari può andare con la moglie, può andare in giro, fa... come ti si fa, cioè, è cosa maggior bisogno della pena, la pensione, da poi passa così, a me dice cosa non mi piace, no, sinceramente non va bene. Cazzo, travaglio la vita, tronchi rossi, arriva un punto che uno dice così, domani va a che cosa? E ce la ne rimagna eti, hai capito? Perché tutti i lavori sono sacrifici, chi più che meno, i nostri, chi fa lavori così, poi... Vega di arrivare in qualche cosa, però chi lavora come lavoriamo noi sono sacrifici, non c'è niente da fare, quindi manda le pensioni prima, becca di fare sabbia, eccetera, eccetera. Invece no, ti buttano molto di distruggiti, di chiamari, in tutti gli sensi, facciate la salute, e poi quando arrivi chi non verrà mai più, comunque è pure grazie a dello cuore niente. Quindi tutto quello che ha lavorato tu già se lo mangiano loro. Perché così? Perché non è che dicono un'ipotesi, visto che chi ci ha travagliato un'ipotesi di 40 anni di demo a Ruviglioro, da Ruviglioro bassano i voti, no, come fanno loro, no, i politici non dicono come ti si basta nei vina uno con l'altro, beh, è come c'è l'America ne vanno, ah, dai, non ti è arrivato, coso, Cristian, mi sei arrivato, sono quasi a casa, caro, ok, dai, tu non fa le canzoni, ma c'è una che c'è dal terminale in elaborazione ancora, va per Napoli. Andava, era. Faccio il risolto un attimo se faccio caso dal volo. Vai, qua non c'è problema. Sono rientrato. Da Lugani. Come ne fai tu là? Mi sono preso il latte con il caldo con la bustina, mi ha un po' calmato mal di gola. Ma tu vuoi? Siamo tutti di palle, non puoi manchi uscire. Ma non dici mai all'altri. Tipo andare in farmacia a prendermi qualche altra medicina. Facevo aspettare agli altri. Vabbè, ci vanno tutti. Come? Ti sei cagato? Sì, il Covid ci ho fatto. Positivo sono risultato. Io ne sto uscendo lo stesso. Speriamo bene. Un abbraccio a tutti. Ma ne stai uscendo anche tu dal Covid? Domani ho il tampone, vediamo se sono negativo. Ma sei rimasto a casa? Sì, sono già 15 giorni. Cazzo, ma 10 giorni mi ha detto. Allora, mi ha detto di andare lunedì a fare il tampone. Il secondo. Io perché prima ha iniziato mia moglie, prima non c'avevo niente, ho fatto 3-4 giorni senza niente, dopo me l'ho presa in casa praticamente. E tua moglie positiva? Sì, ha iniziato lei, poi io e poi mio figlio, cioè 3 siamo passati. Adesso non esiste più l'influenza, avanti Antonello, per Franco da Sassera, va. Ciao Franco, sì, vai così, va, tutto quanto vedo che si muove, tutto ora mi dovrà anche tutto vedo che si muove, tutto quanto muove, purtroppo è un casino, Oia, avanti Antonio, un attimino che mi sposto. Cappa, fra, ma tu non vai in un gabbero. L'ho passata tipo un tosse, un mal di gola, una roba così. Febbre io niente, invece mia moglie e mio figlio sì, un po'. Mio figlio un giorno, no? Invece mia moglie ogni tanto 37-38. E anche io un giorno di febbre, ma di gola, tosse, un po' di tosse, la tosse mi è passata, tanto proprio questo lato, cioè, se non me l'hai ricordato, devo fare lo sciroppo. E ogni scomodità trovo qualche scarichetta. No, invece ho sentito altra gente la scarica pure, è pieno, Sassari è pieno, ma c'è anche i genitori di mia moglie, lo stesso che sono loro sono messi male rispetto a noi, sono ben tasati, un bel catarro, non hanno voglia di mangiare, invece io ne ho fame che ti dico. Ti voglio dare fame azzurra, ma fammi, mi ci ho fatto un bel bicchiozzo di latte e caldo. Capa, l'amico di così, Antonello, da dove Modula? Il produttore, ma ci hai sentato? Arriva più forte degli altri però, in genere il produttore qua arriva a Santiago 1, lui sta arrivando a Santiago 3 che è un segnalone per me, dai, per Porto Torres. Sì, ma arrivi quasi 9 dita a me. Vabbè, c'è l'antenna sul tetto, la mia è dietro il palazzo, quindi è coperto verso Porto Torres. Io vai, prendo più quelli che trasmettono la parte alta di Sassari, dai. Cappa, ma non vega che ci c'è, magazzi, non è che caraca, marasucci, e la puoi mettere sul tetto. Sì, va, chissà, qualche giorno magari ti faccio una sorpresa. Sai che conviene, se mettendo un'antenna conviene mettere un'antenna come si deve. Questa è una canna da pesca, ogni tanto se ne scende un elemento dentro l'altro. Non posso rischiare di mettere questa antenna e poi dopo un paio di settimane devi di nuovo salire su per allungarla di nuovo. Fra già arrivi male così, figurati se metti l'antenna, cazzo. Ma verso Porto Torres no, Alghero, no, non sento niente quasi. Ma ce l'avete sul tetto, sì? Sul tetto penso di sì, almeno dovevi essere libero verso quella parte, verso Porto Torres, là. C'è un'altra palazzina a fianco alla nostra, ma è della stessa altezza. Oltre quella no, c'è la campagna, c'è la tana di Numazzone, là. Mettiti la gimpol. È enorme, è troppo alta, cazzo. Cosa ti vuoi muovere? Non so, dai. Vediamo. Per adesso continuiamo così. Stavo pensando alla Green Master, soltanto che non vedi, sembra troppo delicata. Lascia perdere. Spendere 150-160 euro per vederla spezzata in due, insomma. Mettiti quella che ti sto dicendo io, vorrei che non te ne penti. È che la Game Master non disturba, capito? Mettendola sul tetto, ci sono le antenne del televisore, non vorrei che disturbare. Questa io non ho mai fatto un minimo di disturbo, perlomeno non si è mai lamentato nessuno. Eppure ce l'ho attaccata alla televisione che c'ha la mia dirimpettaia, là. Cappa, vera che no, se la metti più alta delle antenne della TV non mi fa niente. Le antenne con i radiali tendono a disturbare, capito? Comunque. E poi qualcun altro c'era, Luca? Ho sentito un barramobile, buonasera, frate. Ho sentito un barramobile, avanti. Io sono un barramobile. Franco da parte mia, chi sei? Cristian. Ah, Cristian, sì. Che zona sei? No, c'è la vuole fare casulio, c'è il caldo di fare casulio. Ah, quindi da, non siamo lontani, dai. Quindi mi ascolterai bene anche tu, dai. Sì, la voglia, stai tranquillo. Si sente il rumore della bada pesante, penso che sia un camion, dai. Sono appunto. Veniamo a Porto Torres, Antonello si è rientrato. Negativo, volevo vedere se mi ascoltava. Cioè, mi ha risposto, quindi sicuramente mi ascolta. Vedere come mi ascolta. Avanti a tu. Cappa. No, la gimbal non è a radiali. Assolutamente. Quel tipo di antenna. No, quella no, è che è alta più di 8 metri, non te. È una cosa del genere, ma con chi sa di buon un paro buono, non sbagli. A me mi hanno detto che è un'antenna che è garantita anche che ti dura nel tempo. 8,50 m. Socio. Ciao, prego, se vuoi la Smart Tech. No, sta parlando di buoni della Smart Tech. Se metto la Smart Tech qui, se ci bisogna anche mettere sul tetto, di quanto è lunga arriva oltre la cima del tetto. Ho già spiegato, la Smart Tech, la gimbal che c'ho io, che c'ha Carlo, la puoi mettere nel poggiolo, in terra, con una piantana, un pezzo di tubo da un metro, la metti lì, e lei funziona, come che sul tetto. Sì, però sul tetto. detto, tu mi insegni che più in alto è l'antenna, più vede diciamo, il terreno circostante, sicuramente arrivi meglio, da metterla in terra, in giardino per esempio. Io come ce l'ho attaccata al muretto, ce la conosci la casa, sì, al muretto ce l'ho attaccata, cosa, 1,50 m da terra, cosa, che problemi ci sono, già vede, perché l'altro pezzo che c'è quello farà direttore. Lo so, non lo so, vedremo dai, adesso ci accontentiamo di questo. Tutto bene, Claudio? Sì, tutto bene. Allora, vediamo domani cosa mi dicono, se sono ancora, se mi sono negativizzato, dai. Lì ancora no, devi aspettare giovedì o venerdì. Ma scusa, Franco, ma ti annullano il Green Pass, giusto, per questi giorni? Nulla, se tu guardi il mio e mia moglie, sono tutti verdi. Ma anche il mio è verde, per quanto lo stai dicendo, cazzati, adesso dovrebbe anche aggiornarlo, perché io non